Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Lo stupore di Ambrosio a queste parole superò ogni fantasia. «Sia maledetto il giorno!» balbettò Matilde in un accesso di singhiozzi. «Sia maledetto il giorno in cui misi piede nella chiesa dei Cappuccini! Sostituivate il superiore, che era ammalato, e non avete certo dimenticato l'impressione che fece la vostra predica, come trangugiavo le vostre parole. La vostra eloquenza mi sollevava sopra la terra. Vedevo intorno a voi un'aureola di gloria e la vostra faccia fiammeggiava della maestà del Signore. Uscii dalla chiesa tutta calda d'ammirazione. Diventaste subito l'idolo del mio cuore, la mia ossessione, il mio chiodo. La notte calmava i miei ardori perché, tutta piena come ero di voi, non mancavo mai di ritrovarvi nei miei sogni. Mi accoglievate a braccia aperte come uno spirito e come un uomo. Alla fine, incapace di sopportare ancora un giorno la mia tortura, decisi di travestirmi come ora voi mi vedete. Il trucco funzionò. Fui accettata nel convento e riuscii a guadagnarmi la vostra stima. Ma il terrore che un giorno il mio segreto potesse essere scoperto avvelenava la mia esistenza, Ambrosio. Mi sarei forse sbagliata. Sareste meno generoso di quel che penso? Non posso crederlo. Non vorrete ridurre un infelice alla disperazione. Non mi impedirete di vedervi, di parlarvi, di costruire la mia vita a immagine della vostra morta. Riposerò accanto a voi, fianco a fianco, i nostri corpi, in una sola fossa. Il falso Rosario si zittì. Mille opposti sentimenti lottavano nell'animo del monaco. Abile com'era a scrutare dentro di sé, non si accorse però che la sua vanità era stuzzicata dagli elogi fatti alla sua eloquenza e alla sua virtù, e che provava un segreto piacere al pensiero che una donna, giovane e a quanto sembrava anche bella, avesse abbandonato il mondo per lui e sacrificato ogni altra passione a quella che egli stesso aveva saputo ispirargli. Ancor meno notò che nel momento in cui Matilde gli aveva stretto la mano fra le sue dita d'avorio, il suo cuore martellava furiosamente. «Signora!» sbottò. Come potete seriamente sperare che io vi permetta di restare qui, anche se non respingessi la vostra richiesta? Che vantaggio ne trarreste? Non penserete mica che io possa mai corrispondere a un amore sacrilego? No, padre, no. Non pretendo di ispirarvi un amore uguale al mio. Vi chiedo soltanto di lasciarmi libera di passare ogni giorno qualche ora accanto a voi. Voglio la vostra compagnia, la vostra amicizia, la vostra stima. La mia umiltà e il mio riserbo in passato sono la migliore garanzia che non domanderò di più. Signora, per voi il rischio di essere scoperta sarebbe troppo forte. E quanto a me, non voglio certo espormi a una tentazione così pericolosa. Una tentazione? Dimenticate che sono donna e la tentazione scomparirà. Non abbiate paura che, travolta da desideri contrari ai vostri voti e al mio stesso onore, io cerchi di distrarvi dal vostro dovere. Vi amo per le vostre virtù, Ambrosio. Perdetele e perderete nello stesso istante il mio affetto. Come potete temere una tentazione da me? È mio dovere respingere le vostre preghiere e dissipare ogni ombra di speranza che alimenterebbe dei sentimenti mortali per la vostra anima. Partirete di qui domani stesso. Domani? Ambrosio? Domani? No, non è vero, non è questo che volete dire. Volete proprio condannarmi alla disperazione. Non siate così crudele. La mia decisione è irrevocabile e voi obbedirete. Nascondere una donna in questo luogo sarebbe uno spergiuro e le regole del nostro ordine sono assolute. Pronunciò queste parole con voce mal sicura. Si tirò su di scatto e stava per dirigersi al galoppo verso il convento quando Rosario Matilde, gettandoglisi addosso, lo trattenne con un grido. «Fermo! Un solo istante, Ambrosio, ancora una parola!» «Lasciatemi! La vostra insistenza mi dà fastidio! Vi ho già detto la mia decisione!» «Una parola, una sola e sarà finita!» «Lasciatemi! Le vostre preghiere sono inutili, partirete domani!» «Andatevene dunque, crudele! Non mi resta altra scelta!» E così dicendo, cavò fuori un pugnale e, strappatasi con un sol colpo la veste, lo puntò sul seno. «Padre, io non uscirò viva da queste mura. Ferma, Matilde, ferma! Che fate? La mia determinazione è più forte della vostra. Lasciatemi e mi pianto questo coltello nel cuore. Gran San Francesco, ma non sapete che il suicidio è il delitto più grande? Me ne impischio», replicò appassionatamente la travestita. «O la vostra mano mi spalancherà il paradiso, o la mia mi caccerà all'inferno». E alzò il braccio come per colpirsi. Gli occhi del monaco seguirono con terrore il movimento dell'arma. I lembi, a metà discosti dell'abito di Matilde, lasciavano intravedere il suo seno quasi nudo. La punta del coltello pesava sul seno sinistro e, santo cielo, che razza di seno! I raggi della luna che vi spiovevano sopra in pieno permisero al priore di osservarne la bianchezza sconvolgente. «Ferma!» urlò con voce disperata. «Non resisto più! Restate! Restate per la mia dannazione!» E slanciandosi di corsa verso il convento, guadagnò la sua cella e si buttò sul letto. Per qualche minuto non riuscì a mettere ordine nelle sue idee, preoccupato dai sentimenti ai quali si stava abbandonando. Ricorse alla preghiera, si inginocchiò davanti all'immagine della Madonna e la supplicò di aiutarlo a soffocare quel peccaminoso turbamento. Poi si sdraiò sul letto e cadde addormentato. Immediatamente la sua immaginazione infuocata riprese Elena. Davanti a sé vedeva Matilde col seno nudo che gli ripeteva i suoi giuramenti di amore eterno e lo copriva di baci che il suo doppio di sogno restituiva stringendosela appassionatamente addosso. Poi la visione sfumava. A tratti si vedeva inginocchiato davanti alla sua immagine prediletta della Madonna. L'implorava e gli occhi del ritratto scintillavano su di lui con una dolcezza indicibile. Premeva le labbra su quelle della Madonna e le scopriva calde. La figura allora si animava, usciva dalla tela per scivolargli fra le braccia. Il desiderio insoddisfatto evocava nella sua mente le immagini più oscene sulle quali egli si imbarcava verso l'ignoto. Si svegliò, pieno di vergogna al ricordo dei suoi sogni. «Agnese, Agnese», sbuffò misurando i suoi tormenti. «Ecco l'effetto della tua maledizione. lasciò la sua cella, deciso a liberarsi del falso rosario. Era sicuro che Matilde sarebbe venuto a cercarlo e non si sbagliava. Poco dopo essa comparve nell'eremo e si avvicinò timidamente al monaco. Quando gli fu accanto, fece per parlare. Ma Ambrosio, che nel frattempo aveva raccolto tutte le sue forze, si affrettò a interromperla. Pur senza misurarne esattamente l'influenza, temeva la melodiosa seduzione di quella voce. «Sedetevi accanto a me, Matilde», disse con tono fermo che badò a non improntare di severità. «State sicura che sento per voi la più tenera amicizia e la pietà più sincera, e che voi stessa non potreste provare dolore più grande di quello che provo io nel dirvi che non dobbiamo più rivederci». «Ambrosio!» gridò il falso rosario con una voce mozzata dal dolore e dallo smarrimento. «Calmatevi, amico. Rosario mio, lasciate che vi chiami ancora con questo nome che mi è così caro. Non mi sento capace di trattarvi con indifferenza ed è proprio questa confessione che mi obbliga a insistere sulla necessità della vostra partenza. Matilde, non potete restare qui più a lungo. Confido in voi per difendermi da me stesso. Impeditemi di dissipare il frutto di 30 anni di sofferenze. Impeditemi di diventare preda dei rimorsi. Se davvero vi sono caro, risparmiatemi questa angoscia e lasciate il convento. Andatevene e porterete con voi i miei voti più fervidi di felicità. Restate e diventerete il mio pericolo e la mia croce. Non mi resta dunque altro da desiderare che ritrovarci insieme in cielo. Addio, Ambrosio, amico mio. Eppure, che conforto sarebbe portare via con me un pegno del vostro affetto. Che cosa posso darvi? Qualsiasi cosa. Ormai non ha più importanza. Mi basterà uno di quei fiori. E indicò un cespuglio di rose che fioriva all'ingresso della grotta. Me lo nasconderò in seno e quando sarò morta le suore lo troveranno avvizzito sul mio cuore. Il monaco non era assolutamente in grado di aprir bocca. A passi lenti uscì dall'eremo e, avvicinatosi al cespuglio, si arrestò per cogliere una rosa. Improvvisamente gettò un urlo strozzato, tornò di corsa sui suoi passi e lasciò cadere dalla mano il fiore che aveva colto. Matilde, che aveva sentito il grido, gli volò accanto. «Che succede?» esclamò. «Rispondetemi, in nome del cielo, che vi è successo?» «Sono morto», fiatò a mezza bocca il monaco. «Nascosto fra le rose un serpente». Il dolore della ferita divenne subito così forte che egli perse i sensi e stramazzò fra le braccia di Matilde. La disperazione del falso rosario superò allora ogni limite. Si strappava i capelli e si spolmonava a chiamare aiuto. Allarmati dalle sue grida, parecchi monaci accorsero e trasportarono Ambrosio in convento. Fu adagiato su un letto e il monaco, che fungeva da medico della comunità, esaminò la ferita. La mano del priore si era nel frattempo enormemente gonfiata, era in preda a tutti gli orrori del delirio. Le sue labbra schiumavano e 4 dei monaci più robusti faticavano a tenerlo fermo sul letto. Padre Pablos sondò la ferita con una lancetta e quando ritirò lo strumento, la punta apparve macchiata di un colore verdastro. Pablos scrollò il capo e si allontanò dal capezzale dell'infermo. «È come temevo», brontolò. «Non c'è più speranza». «Non c'è speranza, voi dite», piansero i monaci in coro. «Non c'è speranza». A giudicare dalla rapidità del veleno, sospettavo che il priore fosse stato morso da un millepiedi. Non sopravviverà più di 3 giorni. A questo punto fasciò la ferita e si ritirò, seguito dai suoi compagni. Soltanto Rosario restò nella cella. Dietro sue insistenti preghiere, il monaco era stato affidato alle sue cure. Spossato dalla violenza delle convulsioni, Ambrosio era caduto in un sonno profondo e non dava quasi segno di vita. Quando i monaci tornarono per informarsi se vi era stato qualche cambiamento, il priore si trovava apparentemente nella stessa condizione. Pablos disfece la fasciatura più per curiosità che per una reale speranza di scoprire un sintomo di miglioramento, e si può immaginare la sua meraviglia nel constatare che l'infiammazione era completamente scomparsa. Sondò la ferita, la lancetta ne uscì netta e pura. Non si vedeva più traccia del veleno, e se non fosse stato per il morso ancora visibile, Pablos avrebbe dubitato che ci fosse mai stata una ferita. Alla notizia dell'insperata guarigione del priore, la gioia dei monaci fu sconfinata e non ci misero molto a gridare al miracolo. Il loro superiore era un santo ed era naturale che San Francesco fosse intervenuto per salvarlo. L'opinione fu accolta all'unanimità e fecero tanto strepito gridando al miracolo, che Ambrosio si svegliò. Aveva ripreso conoscenza e di tutte le sue sofferenze non restava che un profondo spossamento. Pablos gli diede un cordiale e gli consegnò di restare a letto ancora per 2 giorni, poi si ritirò raccomandandogli il silenzio. I monaci seguirono il suo esempio e Rosario e il priore rimasero senza testimoni. Ambrosio sogguardò la sua infermiera con un piacere che si sentiva impotente a reprimere, per quanto insidioso gli potesse sembrare per la sua tranquillità. La bella novizia stava seduta sul bordo del letto, con la testa reclinata e avvolta come sempre nel suo cappuccio. «Siete ancora qui, Matilde?» bisbigliò finalmente il monaco. «Non siete soddisfatta di essere stata tanto vicina a causare la mia morte che solo un miracolo ha potuto salvarmi dalla tomba? Senza dubbio il cielo ha mandato quel serpente per punirmi. Zitto, monaco mio, zitto», rimbeccò Matilde, intenerita dalla gioia. «Sapete bene che non dovete fiatare. Ho il compito di sorvegliarvi e non dovete disobbedire». «Star zitto! Ma se ho tante cose da dire...» «Zitto, zitto, non dovete parlare. Ma visto che non mi sembra che abbiate voglia di dormire, che ne direste se vi facessi un po' di musica per distrarvi dai cattivi pensieri?» «Un po' di musica? Sapete suonare?» «Sì, oh, non ho un gran talento, ma se dovete stare zitto per 2 giorni, anche le mie canzoni serviranno a qualcosa. Vado a prendere l'arpa». Tornò subito dopo trascinando un'arpa enorme che sistemò non lontano dal letto. Preludiò con qualche nota la cui leggerezza e la cui intonazione denunciavano un'esperta musicista. Mentre suonava, la veste di Matilde si era aperta, mostrando a nudo tutti i segreti del suo corpo. Aveva cominciato col rimboccarsi le maniche e Ambrosio aveva visto le sue braccia scoperte battere il tempo e volare attraverso le corde dell'arpa. Il falso novizio era là, a un passo da lui, pronto a dargli, si gonfio di un languore che non chiedeva di meglio che abbandonarsi fra le sue braccia. Tutto quel che vedeva per i suoi sensi eccitati dalla lunga astinenza e dalla febbre era desiderabile fino alla pazzia. E quel che non vedeva ancora voleva vederlo subito, all'istante. Si sfiatava di voglia e si consumava in una sterile lotta, cercando inutilmente di scansare l'abisso che gli si spalancava vertiginosamente davanti. Matilde aveva smesso di cantare. Per non subire il suo fascino, il monaco teneva gli occhi chiusi. E credendolo addormentato, la ragazza gli si avvicinò con dolcezza e rimase per qualche istante assorta a guardarlo. Poi si chinò su Ambrosio e una sua lacrima gli sgocciolò sulla guancia. «Ho turbato il suo sonno!» esclamò tirandosi subito indietro. Ma la sua preoccupazione era infondata. Nessuno dorme più profondamente di chi è ben deciso a non svegliarsi. Il priore restò zitto, sprofondato in una immobilità che gli diventava ogni istante più intollerabile. Il calore bruciante di quella lacrima si era comunicato al suo corpo. «Che affetto! Che purezza!» rimuginava fra sé. «Se il mio cuore è così sensibile alla pietà, che sarebbe di me se mi innamorassi?» Matilde si alzò e si allontanò dal letto di qualche passo. Ambrosio aprì velocemente un occhio e azzardò uno sguardo ipocrita. In quel momento il falso Rosario gli volgeva le spalle e con la testa appoggiata sull'arpa fissava il ritratto della Vergine sulla parete. «Immagine fortunata, e a voi che egli riserva le sue preghiere e la sua ammirazione. Oh, se soltanto potesse dirmi una volta la meno tenera delle frasi che prodiga alla Vergine, se solo mi dicesse che libero dal suo voto alla Chiesa non avrebbe respinto Matilde». Il monaco non aveva perso una parola del monologo e il tono delle ultime frasi lo aveva pericolosamente sconvolto. Senza volere, sollevò la testa dal cuscino. «Matilde!» smaniò. «Matilde mia!» A quelle parole l'ex novizio sobbalzò e si voltò bruscamente. La foga del suo movimento fece cadere il cappuccio che le nascondeva la faccia e, per la prima volta, i suoi lineamenti apparvero agli occhi sgranati del monaco. Era il sosia perfetto della sua adorata Madonna. Lo stesso viluppo di capelli biondi, la stessa soavità e lo stesso mistero nei lineamenti, gli stessi occhi. Fra maliziosi e sorpresi, il sangue non fece in tempo a girargli una volta nelle vene che Ambrosio ricadde sul cuscino con un profondo soffio di sorpresa, senza più sapere se quella che gli stava davanti era una donna mortale o una dea. La confusione di Matilde era inimmaginabile. Le sue guance si colorarono subito di un magnifico incarnato e la sua prima reazione, non appena si riebbe, fu di coprirsi la faccia. Poi, con voce tremante e impaurita, rivolse al monaco queste parole. «Il caso vi ha fatto conoscere il mio segreto. Sì, Matilde di Villa Negas ha posato per l'immagine della vostra Madonna. Quando la disgraziata passione per voi cominciò a nascermi nel cuore, decisi di farvi avere il mio ritratto, bruciando dalla voglia di sapere che effetto vi avrebbe fatto. Mi feci ritrarre da Martin Galuppi, un celebre pittore veneziano che a quell'epoca risiedeva a Madrid. Mandai il ritratto al convento come se fosse in vendita e l'ebreo che lo portava era un mio emissario. Mi sospetterete ancora di più dopo questa scoperta. Al contrario, essa dovrebbe convincervi della purezza del mio sentimento e persuadervi a non rifiutarmi la vostra compagnia e la vostra stima. Ogni giorno vi sentivo fare l'elogio del mio ritratto. Sono stata testimone dell'estasi che la sua bellezza vi procurava e, nonostante ciò, ho continuato a tenervi nascosto quel volto che amavate senza saperlo. Non ho cercato di impadronirmi del vostro cuore attraverso i vostri sensi. Vi ho tenuto all'oscuro del mio sesso. E se non mi aveste spinta, voi stesso, a tradire il mio segreto, se non fossi stata torturata dal timore di essere un giorno scoperta, mi conoscereste ancora come Rosario. Siete sempre deciso a scacciarmi? Non potrò passare con voi le poche ore che mi restano da vivere? Ambrosio, parlate. Ditemi che posso». Questo discorsetto diede al monaco il tempo di riprendersi. Sentiva che nello stato in cui si trovava la fuga era il solo modo di scampare al sortilegio. «Quel che dite mi sorprende talmente che per ora non mi sento in grado di rispondervi. Non insistete, Matilde. Lasciatemi solo. Ne ho bisogno». sera stessa Ambrosio poté alzarsi dal letto. Non vide il falso rosario che per qualche istante e in presenza degli altri monaci quando vennero tutti insieme a chiedere notizie della sua salute. Quella notte Ambrosio dormì bene e i suoi sogni furono, se possibile, ancora più voluttuosi del solito. Inondava Matilde di carezze diaboliche e il falso novizio gliele restituiva a usura, ma senza mai permettergli di soddisfarsi interamente. Si svegliò tutto eccitato, con la lingua gonfia, piena di disgusto e di delusione. Dopo colazione si diresse verso l'eremo. I monaci, sparsi nel giardino, facevano la siesta sotto l'ombra degli alberi o alla frescura delle grotte artificiali. Scorgendo fra loro Matilde, Ambrosio le accennò con gli occhi di seguirlo. Sedettero sulla panchina d'erba che era stata testimone della rivelazione del sesso di Rosario e le disse che consentiva a che restasse a dividere la sua solitudine per tutto il tempo che avrebbe voluto. La notizia non sembrò farle alcun piacere. «Ahimè, padre!» mormorò scuotendo tristemente la testa. «La vostra bontà viene troppo tardi. La mia sorte è segnata e dobbiamo separarci per sempre. Ma credetemi, vi sono riconoscente per la generosità che dimostrate a una sventurata che non ne aveva alcun diritto.» A questo punto portò agli occhi il fazzoletto. Il cappuccio lasciava a metà scoperto il suo volto e Ambrosio notò i lineamenti tirati, gli occhi profondamente affondati nelle orbite e resi ancora più grandi dalla febbre. La notte un colpo brusco alla porta della cella interruppe le sue riflessioni. Aprì, un monaco si precipitò dentro mezzo sconvolto. «Affrettatevi, reverendo padre», disse. «Venite dal giovane Rosario, chiede di vedervi all'istante, è in punto di morte». Ambrosio volò verso la cella del novizio. Dentro c'erano già parecchi monaci e padre Pablos, con una medicina in mano, cercava di convincere Rosario a prenderla. Gli altri erano occupati ad ammirare i lineamenti stupendi del malato che vedevano per la prima volta. Matilde era più bella che mai. Il pallore era scomparso e un acceso incarnato era soffuso sulle sue gote. La faccia, come in preda a un'improvvisa ispirazione, tremava di gioia, ma non appena scorse Ambrosio, gridò forte, scacciando con un cenno della mano i monaci che lo circondavano. È lui, lo rivedo ancora prima di separarmene per sempre. Allontanatevi, fratelli, devo parlare da solo all'uomo di Dio. I monaci obbedirono senza esitare e Matilde restò faccia a faccia col priore. Che avete fatto? Sbottò questi, precipitandosi al suo capezzale. Dunque, i miei presentimenti erano fondati. Avete osato attentare la vostra vita. Quel che ora vi dirò, avevo giurato di rivelarvelo soltanto in punto di morte. E ora il momento è venuto. Non avete certo dimenticato il morso del millepiedi. Il medico vi dichiarò perduto, ma mentre ero sola con voi, tolsi la fasciatura dalla vostra mano, incollai le labbra alla ferita e succhiai il veleno che vi infettava. Guariste completamente, ma il male passò in me e fra un'ora al massimo lascerò questo mondo per uno migliore. A queste parole il priore cacciò un urlo e scivolò a terra semisvenuto. Matilde lo strinse fra le braccia, ma rialzandosi bruscamente Ambrosio fiatò con tutto lo smarrimento di un autentico dolore. «E vi siete sacrificata per me. Pagate con la morte la salvezza di Ambrosio. Matilde, parlate presto. Non c'è più speranza. Non esiste un rimedio. Rassicuratevi, amico mio. Un rimedio c'è, ma pericoloso, e io ho paura di farne uso, è tremendo, e significherebbe pagare troppo caro il diritto alla vita, a meno che non mi fosse concesso di vivere per voi. Ebbene, Matilde, vivete, sì, vivete per me, vivete per la mia rovina e per la mia gratitudine. e, impadronitosi della sua mano, la baciò appassionatamente. «È fatta. Non resisto più. Lasciate che la comunione di anima ad anima, di cui mi avete parlato con tanto ardore, ci unisca l'uno all'altro. Io non sono più uomo e tu non sei più donna. Che importano le vane distinzioni del mondo, vivete. Matilde, a qualsiasi prezzo!» «Ormai è impossibile, Ambrosio. La mia voglia di voi è di quelle che solo la morte può saziare. Qualcosa ha strappato dai miei occhi il velo che copriva la verità. Non è più il santo che mi attrae in te, ma l'uomo. Non saprei che farmene di un'amicizia fatta di parole, di un sentimento che non si possa palpare con le mani. Ti voglio nella tua forma mortale, proprio perché ti voglio così. Bisogna che io muoia. Se vivo, la tua santità è perduta. Sarei la tua tentazione di ogni istante. Non poterti possedere per me significherebbe la morte. Di, tocca un po' il mio cuore.» Egli prese la mano. Fra loro si fece silenzio e senza resistenza. Il falso rosario portò quella mano al suo seno. «Sentite come batte. Stasera castità, onore, purezza, ma domani, chissà, sarà preda dei più neri delitti. E oggi che devo morire finché sono ancora degna del pianto dei puri. È così che voglio spirare.» Matilde reclinò il capo sulla spalla del monaco e gli inondò il petto dei suoi capelli biondi. «Verserete una lacrima sulla mia tomba? Dimmi, monaco mio, dimmi che lo farai.» Ambrosio era nel pieno vigore degli anni. Una donna giovane e affascinante, che l'amore aveva trascinato sul limitare della tomba, si offriva a lui. Sedette sul bordo del letto, la sua mano non si era staccata un istante dal seno di Matilde e la testa della tentatrice riposava sempre voluttuosamente sul suo petto. Quale uomo, al suo posto, avrebbe resistito a un sortilegio tanto perfetto? Si lasciò andare e incollò le sue labbra su quelle di Matilde, che lo cercavano. Non ci furono più né voti, né sacramenti, né pudore. Non ci fu più che il piacere del momento.